Effetto Mondo. Donald Trump needs to stop caring about how he looks and start caring about what America is happening to the rest of America. Con le parole di Joe Biden, benvenuta Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Sì, Joe Biden sta intervenendo un po' più spesso, sempre quando esce in pubblico ha sempre la mascherina, questo era un intervento da casa, e quindi dice che Donald Trump deve smetterla di preoccuparsi del suo aspetto, perché secondo molti lui continua a non voler portare la mascherina per il semplice motivo che non si sente a suo agio fisicamente dal punto di vista proprio del look. E deve invece cominciare a pensare a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché il tema è duplice, ne parlano oggi tutti i giornali. Da una parte l'aumento dei casi in 29 stati, il Texas, che ha un governatore repubblicano che comunque ha avuto qualche discussione con Trump, perché aveva comunque un programma di riaperture più lento di quello che avrebbe desiderato Donald Trump, ma oggi Washington Post e Wall Street Journal in prima pagina scrivono che questo piano ha dovuto ulteriormente rallentare perché in Texas sono molto aumentati i contagi. E la mappa che oggi pubblica il New York Times, divisa in due, una è riferita, un grafico proprio, un'infografica riferita al periodo 24-30 marzo e quella sotto al periodo 18-24 giugno. E a differenza di quello che sta succedendo in Europa, per esempio, sono aumentati ovunque queste barre rosse che indicano il numero dei contagiati. Il secondo fronte l'ha aperto il Center for Disease Control and Prevention, sì, che è un po' una sorta di istituto superiore di sanità, quindi non neutrale, diciamo, che ieri ha lanciato questa bomba, potremmo dire, asserendo che sono tantissimi più di quelli che sono stati finora certificati i casi, potrebbero essere addirittura 24 milioni. E la misura 10 volte tanto. Esatto, controllato il 10 volte tanto, esatto, 10, e quindi naturalmente questo contraddice anche il pensiero di Trump, che è, lo sappiamo, riapriamo tutto, ricominciamo i rally elettorali, e quindi insomma questo resta il tema per quanto riguarda la pandemia, poi ovvio ci sono anche altre notizie. E insomma, stavo guardando i dati, le curve anche, insomma, effettivamente ormai un quarto dei casi sono imputabili agli Stati Uniti per quanto riguarda il Covid. Emigriamo in Europa, ci sono altre notizie sempre, Giulia, dai giornali, sì, oggi per quanto riguarda. Perché come sai, insomma, è un po' tutto legato a questa pandemia, e quindi il Wall Street Journal per esempio lancia questo allarme. La Federal Reserve ieri, la banca centrale americana, ha praticamente consigliato, ma è un po' come dire ordinare, a tutte le banche di non distribuire dividendi e di non fare operazioni riacquisto di azioni proprie, che ovviamente implicano un investimento di liquidità, perché si prevedono 700 miliardi di crediti deteriorati, di cui fa parte tutto, i mutui che non vengono pagati, le rate delle carte di credito, naturalmente i prestiti delle aziende. Quindi questo naturalmente è uno di quegli effetti a medio termine che va calcolato. E poi ti segnalo, perché anche questo in fondo è un effetto collaterale, sull'edizione del New York Times europea, quella internazionale, c'è questa foto splendida di due leopardi, perché nell'America Latina sta aumentando tantissimo il bracconaggio, come del resto avevamo detto già in Africa, perché purtroppo molte persone che si occupano di vigilare, perché non i bracconieri guidano gli animali, naturalmente in questo periodo sono o malati o non possono andare a lavorare, e quindi c'è questo aumento pazzesco di uccisioni di animali stupendi come i leopardi. Allora, giornali britannici, abbiamo parlato poco fa con Carlo, la vittoria del Liverpool dopo 30 anni, sicuramente sì, su tutte le prime pagine, poi che altro, Giulia? Sì, su tutte le prime pagine, è proprio l'Independent addirittura, insomma, questa foto con il titolo "I fan del Liverpool dipingono il loro rosso", cioè, perché poi c'è appunto questo rosso Liverpool. Poi c'è, a proposito di riaperture, temperature record nel Regno Unito, quindi tutti in spiaggia, e grandi polemiche perché naturalmente il social distancing in spiaggia è assolutamente non osservato, quindi si sta pensando soprattutto soprattutto alcuni parlamentari dell'opposizione, di impiegare la polizia. Però dove? Cioè, li metti il tema che viene trattato oggi dai giornali, li metti all'ingresso, alle uscite delle autostrade per le località di mare, li metti all'entrata delle spiagge, quanti ne hai bisogno? È molto difficile, insomma, in teoria bisognerebbe contare sulla responsabilità dei cittadini. Che poi è il sistema preferito dagli inglesi in genere, il pragmatismo, però non sempre può bastare, forse in questo caso magari no. Altre cose sulla Gran Bretagna o ci spostiamo in Germania, dove c'è il tema Ma scuola in primo piano, eh? sì, guarda, ti segnalo solo un'ultima cosa, ma un po' sempre per farci capire che poi la politica è un po' uguale ovunque. C'è questa, si apre la resa dei conti all'interno del Labour, che sapete, dopo la sconfitta di Sì. Corbyn alle elezioni, si è dimesso, e quindi adesso il nuovo leader Starmer ha licenziato alcune persone e altre ha già detto che non verranno ricandidate o comunque verranno messe ai margini del partito. È una questione antica dei commenti antisemiti di cui veniva accusato Corbyn, che peraltro ha sempre negato. C'è questo tentativo di, più che fare appello all'elettorato di fede ebraica, che ovviamente è una piccola parte nel Regno Unito, di dare una nuova immagine di questo New Labour, che ovviamente è in crisi nera, forse approfittando del fatto che anche Johnson e il suo partito in questo momento non se la passano bene. Benissimo. Però sì, dicevi la Germania, Der Sì. Spiegel. Ah, è una copertina che ti piacerebbe tantissimo, credo. Cioè, è Immer Ferien, cioè in vacanza per sempre, ed è una specie di disegno, di fotomontaggio, sembra Sì. quelle locandine dei film dell'orrore. Ci sono tre ragazzi, un ragazzino e dietro di lui i genitori, sono tutti verdi, colano sostanze verdi, quindi sembrano un po' degli Degli zombie. alieni, sì, E degli zombie. il tema naturalmente è il Schulchaos, che poi il caos della scuola in Germania è diverso da quello che abbiamo noi, però. Con i focolai nel Nord Sì. Reno-Vestfalia, e i tedeschi hanno visto con che velocità le autorità locali sono disposte a richiudere le scuole, e resta comunque tutto ancora molto un'incognita. E siccome in Germania, a differenza dell'Italia, non è che automaticamente le donne stanno a casa a curarsi dei figli, questo diventa un tema, appunto, il disegno, il bambino disperato, ma anche i genitori disperati. Sì. Sì, Quindi altra vedremo anche lì con. No, dico, altra cosa poi è utilizzare questo fatto che in Germania, per via dei nuovi casi, in quello stato si sono dovute richiudere le scuole per dire avete visto, non bisognava riaprirle, perché in altri Länder le scuole sono riaperte, stanno cercando di fare quello che possono senza richiuderle, noi non ci abbiamo nemmeno provato. È chiaro che se c'è un focolaio devi poi chiudere tutto. Giulia, invece in Francia mi segnali, come dire, in grande spolvero questo medico anticipatore un po' della clorochina. Sì, guarda, è un personaggio, guardate a cercarlo su YouTube, ha questo anello gigantesco con un teschio, i capelli lunghi, è un po' un hippie, un po' Personaggione, stile. sì. Se abbiamo tempo proprio solo per sentire Sì? la sua voce, perché è appena uscito, guarda un po', anche lui ha appena pubblicato un libro. Il témoin d'une chose, c'est que la bouffée épidémique est passée derrière nous. Ce qui se passera à l'avenir, j'en sais rien du tout. Et que donc, Abbiamo pochi secondi, Giulia, che dice? La vita deve riprendere, la bufera è passata. Era un'intervista radiofonica, dopo un po' ha minacciato di andarsene perché il giornalista lo incalzava dicendo: però i dati sui contagi e sui decessi non sono poi così da sottovalutare, ci sono seconde ondate dappertutto. Non l'avesse mai detto e lui ha minacciato. Però, insomma, comunque la Francia effettivamente, anche per il caldo, oggettivamente, sta a sua volta vedendo dei rassembramenti che forse sono un po' pericolosi. Va bene, grazie Giulia. Ci risentiamo la settimana prossima con te e con gli ascoltatori, naturalmente. È tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi regia, Laura Faggini in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buon weekend. Ciao ciao.